Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È in rianimazione il tredicenne rimasto investito da una fiammata in un parco giochi di Taipana. Il ragazzino si trova ricoverato all'ospedale Grandi Ustionati di Padova. I lavoratori del porto di Trieste lanciano una colletta per la famiglia di Paolo Borselli, il portuale vittima di un infortunio sul lavoro. Oggi verrà effettuata l'autopsia, mercoledì un vertice in prefettura. Solenne cerimonia a Faedis per le vittime dell'eccidio di Porzus e per Don Redento Bello, a 10 anni dalla morte. Bollo speciale, cerimonia e concerto a Trieste, la celebrazione della giornata della cultura slovena nel Palazzo delle Poste, sotto l'alto patronato dei presidenti della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia. Anche la musica può aiutare l'Ucraina, ne è convinta la giovane pianista Milana Kurhan, costretta a lasciare il suo paese in guerra per la Lituania. Molto applaudito il suo concerto a Pordenone. I segreti del CERN di Ginevra carpiti dagli studenti delle università di Trieste e di Udine. Oggi il masterclass di fisica delle particelle organizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sci che passione, ma quanto costa, soprattutto per una famiglia. Piste affollate nel comprensorio regionale, ma il budget è sempre più caro. Finisce in parità lo Stadio Friuli Udinese Sassuolo, che portano a casa un punto a testa. I bianconeri non vincono da 5 mesi. 5 mesi di astinenza che sono valsi una mini contestazione e fischi finali. Basket Serie A, passo indietro della Pallacanestro Trieste, battuta per 80-69 da Tortona a Casale Monferrato. Giornata no anche per l'APU Udine, sconfitta in A2 da Pistoia per 72. La squadra friulana mai in partita. Una buona giornata da Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è sereno o poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 7,5 gradi, a Gorizia 4, a Pordenone e Udine 0 gradi, a Forni di Sopra meno 1 grado, a Tolmezzo meno 2,5 gradi, a Sappada meno 3,5 gradi, a Piancavallo meno 4, a Tarvisio meno 5,5, sul Monte Lussari 2 gradi, sul Monte Zoncolan 6 decimi di grado, a Lignano e Grado 5,5 gradi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi: cielo sereno o poco nuvoloso, di primo mattino possibile bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, e sul Tarvisiano sarà possibile la presenza di nubi basse a fondo valle, poi in dissolvimento. Lo zero termico sarà in rialzo fino a 3000 metri circa, con inversione termica a fondo valle. È intubato nel reparto Grandi Ustionati di Padova il ragazzino di 13 anni che ieri pomeriggio è stato avvolto dalle fiamme mentre cercava di accendere un fuoco in un campo giochi di Taipana. Ancora non del tutto chiara la dinamica dell'incidente. Si trova in rianimazione nel reparto Grandi Ustionati di Padova il ragazzino di 13 anni che ieri pomeriggio è stato investito da una fiammata in un parco giochi a Taipana. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri di Cividale non è del tutto chiara, ma pare che avesse con sé un liquido infiammabile e un accendino con i quali forse stava giocando o tentando di accendere un fuoco mentre si trovava a un tavolino del giardino pubblico insieme ad alcuni coetanei. La fiammata ha raggiunto il suo giubbotto sintetico che è andato a fuoco in un lampo, provocandogli delle gravi ustioni a un braccio e al tronco, meno gravi e meno estese al volto. È accaduto intorno alle 15:30. I genitori, che abitano nella frazione di Monte Aperta, erano andati a fare 2 passi lasciando il figlio insieme agli amici, ma sono stati loro a chiamare il 112. La situazione è apparsa subito molto seria e il ragazzino è stato portato in volo a Padova. Con lui c'è la mamma. Il sindaco di Taipana, Alan Cecutti, è in contatto con lei. Il ragazzino è stato intubato, ci ha riferito. Ora dobbiamo attendere. Taipana, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al via oggi una raccolta fondi a sostegno della famiglia del portuale triestino di 58 anni morto giovedì scorso, dopo essere caduto in mare col suo muletto al Molo Settimo dello Scalo Giuliano. Una iniziativa dei sindacati, cui parteciperà anche il terminalista TMT Trieste Marine Terminal. Ricordiamo che una prima intesa sul potenziamento delle misure di sicurezza nel porto di Trieste è stata raggiunta durante un tavolo a cui hanno partecipato le sigle sindacali. Una raccolta di fondi per aiutare la famiglia di Paolo Borselli, il portuale morto giovedì cadendo in mare a bordo del mezzo che stava manovrando sul Molo Settimo. Parteciperanno l'azienda, i lavoratori e i sindacati, ma c'è la possibilità che la sottoscrizione venga aperta anche alla cittadinanza e agli amici. Trieste Marine Terminal ha annunciato che raddoppierà la cifra raccolta dai lavoratori. Sul fronte delle indagini, oggi la procura dovrebbe disporre l'autopsia per stabilire se la morte sia avvenuta per annegamento se l'uomo sia finito in acqua a causa di un malore. La procura sta anche visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per verificare se ci siano state delle negligenze da parte di qualcuno, immagini che i sindacati chiederanno di vedere. Il porto ha ricominciato a lavorare dopo lo sciopero di 48 ore, molto il lavoro arretrato, con più di 10 navi in rada in attesa di scaricare o caricare merce. Le misure di sicurezza sono state temporaneamente rafforzate, almeno fino a mercoledì, quando ci sarà un vertice in prefettura per venire incontro alle richieste dei lavoratori. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora le celebrazioni per il 78esimo anniversario dell'eccidio delle Malghe di Porzus, una delle pagine più buie della storia partigiana del Friuli. Sentiamo. Uno degli episodi più controversi e discussi della resistenza all'eccidio delle Malghe di Porzus, quando nel febbraio del 1945 17 partigiani della Osoppo furono uccisi da un gruppo di partigiani gappisti: Hermes, Bolla, Enea, Ateone, alcuni dei nomi di battaglia dei ragazzi della Brigata Osoppo vittime dell'eccidio. La salita alle Malghe per onorare i caduti della Brigata Osoppo, una messa nella chiesa parrocchiale di Canebola, celebrata dal cappellano militare della Brigata Iule, la deposizione di una corona sul monumento ai caduti in piazza Primo Maggio a Faedis, hanno scandito le celebrazioni per il 78esimo anniversario. Tra i numerosi partecipanti il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. A distanza di tanti anni noi tutti ci riconosciamo come italiani in uno Stato libero, però non possiamo dimenticare che qualcuno si è sacrificato per noi. Non è il tempo di revanchismi, di divisioni, è il tempo di guardare avanti, ma non si può costruire il futuro senza ricordare il passato. Tazio De Gregori, nipote del comandante della Brigata Osoppo, Bolla. È un momento dedicato al ricordo di questa persona, mio nonno, che io non ho mai conosciuto, neanche mio padre ha mai conosciuto, perché è morto a 33 anni, ucciso in questi posti. E fa piacere vedere che il suo sacrificio non è stato invano, in quanto dopo tutti questi anni ancora si celebra la verità. Ricordate a 10 anni dalla sua morte la figura di Don Redendo Bello, il cappellano degli Osovani, Don Candido, scampato alla strage e artefice nel 2001 del gesto di riconciliazione con il comandante garibaldino Vanni Padoan. Al termine, il presidente dell'associazione partigiani Osoppo ha consegnato il tricolore a un gruppo di ragazzi della Casa dell'Immacolata di Don Emilio De Roia. Faedis, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La politica entra nel vivo la campagna elettorale. Ha duramente attaccato il governo Nicola Fratoianni, deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana, in regione lo scorso weekend per spingere la raccolta firme per la presentazione della lista Alleanza Verdi Sinistra, che comprende Sinistra Italiana, Europa Verde Possibile. In Friuli Venezia Giulia. La difesa della sanità con lo spirito della battaglia vinta nel 2011 per l'acqua pubblica. L'Alleanza Verdi Sinistra in Friuli Venezia Giulia sostiene su questo terreno comune la candidatura alla presidenza della regione di Massimo Morettuzzo, assieme a una coalizione che all'interno ha anche Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. A Trieste primo incontro pubblico del candidato, assieme al leader nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che parla dei punti principali di quella che sarà la campagna elettorale del centro-sinistra. Mettere al centro l'interesse generale, i beni comuni, la sanità pubblica, l'investimento sulla scuola, sulla cultura, la tutela dell'ambiente, la sicurezza del lavoro, la qualità del lavoro, di questo ha bisogno questa regione e il nostro paese per cambiare meglio. Per Sinistra Italiana, che vorrebbe recuperare il voto dei giovani, soprattutto precari, bisogna battere sulla sanità con il modello Fedriga Riccardi, che va smontato perché non funziona, genera tempi di attesa molto lunghi anche in oncologia e ha ceduto interi settori ai privati. Pur senza l'accordo con il terzo polo, c'è soddisfazione per il perimetro di una coalizione che può essere visto come un laboratorio anche a livello nazionale. Una coalizione che è la dimensione minima per essere competitivi, per battere la destra e cambiare la regione e il paese. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. A 10 anni dal rapporto Cottarelli, la revisione della spesa pubblica è più che mai un nodo fondamentale e irrinunciabile sul quale si gioca la credibilità internazionale del nostro Paese. Ma cosa è rimasto di quel progetto originario e quanta strada c'è ancora da fare? Sono alcune domande a cui Carlo Cottarelli potrà rispondere alle 14 nel centro polifunzionale di Pordenone dell'Università di Udine. Sarà ospite dei seminari Non solo finanza, dei corsi di laurea in banca e finanza dell'Ateneo Friulano a Pordenone, e terrà una lectio magistralis dal titolo Spending Review. A 10 anni dal rapporto Cottarelli, a che punto siamo? Ieri anche a Trieste è stata celebrata la giornata della cultura slovena, che si celebra ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del principale poeta sloveno, Prešeren. L'inno sloveno, italiano ed europeo, eseguito dall'Orchestra del Friuli Venezia Giulia, ha inaugurato la festa della cultura slovena che la comunità slovena in Italia, attraverso le sue due organizzazioni rappresentative, Escagese e SSO, ha voluto celebrare quest'anno in uno spazio che accomuna tutti i cittadini e quindi nello storico Palazzo delle Poste Italiane a Trieste. L'internazionalità della musica ha contraddistinto questa edizione dell'evento, che ha ricevuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Mattarella e della sua omologa slovena Pirc Musar. Accanto all'orchestra del Friuli Venezia Giulia, diretta da Tomáš Kukovič, la serata, ideata dal regista Marco Mannin, ha visto protagonisti numerosi altri interpreti nei quali si riconosce la minoranza slovena. La serata solenne è stata anche l'occasione per premiare gli artisti che più si sono distinti, un premio che quest'anno è stato consegnato a due donne, la triestina Petra Grassi, che a 34 anni vanta già 3 anni di direzione del coro giovanile d'Italia, e la poetessa Andreina Trušnjak, che con i suoi versi nello sloveno delle valli del Natisone ha convinto diverse giurie in Italia. L'8 febbraio, giornata in cui si celebra la cultura in Slovenia, lo scrittore triestino Duško Jelinčić e il pianista goriziano Aleksandar Gagijev sono stati ricevuti anche dalla presidente slovena Pirc Musar. Trieste, Nada Čok, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stata costretta a lasciare il suo paese in guerra, l'Ucraina, ma continua a sostenerlo dalla Lituania, dove ora vive e lavora, la giovane pianista ucraina Milana Hurhan, vincitrice di un prestigioso concorso. La musica può fare molto per la mia martoriata nazione, ha detto ieri a Pordenone, dove ha tenuto un applaudito concerto. Ogni nota una speranza di pace. Si esibisce al pianoforte all'auditorium della Casa dello Studente Zanussi di Pordenone nel giorno del suo compleanno, a un anno dallo scoppio della guerra nel suo paese. Milana Kurkhan, nata a Kharkiv e rifugiata in Lituania dopo lo scoppio della guerra, è una giovane e talentuosa artista ucraina, vincitrice del concorso internazionale Scarlatti di Vilnius. La musica per me è la mia vita. Adesso la musica per me è un strumento migliore per sostenere il mio paese, l'Ucraina, e anche per dimostrare che dal paese dove provengo io ci sono tantissimi talenti. Oggi compio 20 anni, quindi questo è un significato anche molto importante per me, e vorrei che la musica mi accompagnasse per sempre. Il concerto rientra nella 46esima edizione di Musica Insieme, storica vetrina cameristica promossa dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone a cura dei maestri Franco Calabretto e Eddie De Nadai. Il concerto di oggi premia un talento straordinario, ma assume certamente anche una connotazione diversa che aggiunge un valore al fattore prettamente artistico e nel segno della solidarietà, la solidarietà di una quantità incredibile di talenti delle accademie ucraine che in questo momento stanno riparando ospiti di altre accademie europee. Per il mondo vorrei augurare che finissero tutte le guerre, la guerra in Ucraina, la guerra in casa sua, ma le guerre in generale, che non ci fossero più, e personalmente per se stessa li vorrebbe augurare l'Olimpo della musica. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono circa 130 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto che partecipano alla International Masterclasses di fisica delle particelle, organizzate dalla sezione di Trieste e dal gruppo collegato di Udine dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in stretta collaborazione con l'Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Trieste. Le ragazze e i ragazzi potranno fare esperienza diretta di come funziona la ricerca scientifica dei grandi laboratori, analizzando i dati provenienti da veri esperimenti. Saranno accompagnati da ricercatori e ricercatrici in un viaggio alla scoperta delle proprietà delle particelle elementari ed esploreranno direttamente i segreti dell'acceleratore del CERN di Ginevra. Si parte oggi a Trieste. Gli studenti durante queste masterclass in pratica vivono una giornata da ricercatori della fisica di lenta energia, della fisica delle particelle. Cioè loro si immergono dalla mattina fino alle attività del pomeriggio e si cerca di ricreare quello che facciamo noi ricercatori, per esempio che lavoriamo al CERN. Ovvero la mattina c'è una serie di seminari in cui si cerca di dargli le nozioni fondamentali per studenti delle superiori, quindi un attimino semplificate, però per dargli tutta un'idea di cos'è la fisica delle particelle, cos'è il CERN, cosa sono gli acceleratori di particelle, fino ad arrivare a cosa fanno effettivamente i ricercatori, come si fa l'analisi dei dati. Dopo questi seminari introduttivi la mattina, invece il pomeriggio c'è un'attività pratica. Agli studenti vengono dati dei dati da analizzare, cioè loro si immergono nel ruolo di ricercatore e hanno questi dati, si devono fare delle scelte, decidere che informazioni estrarre da questi dati. Alle 4 c'è questa videoconferenza che è organizzata centralmente dal CERN e ci sono tipicamente 3 o 4 istituti diversi, quindi università diverse che ospitano studenti della propria zona, delle scuole della propria zona, e chiaramente parlando in inglese si discutono i risultati, quindi ogni scuola ha i suoi portavoce a cui viene chiesto di spiegare brevemente cosa hanno fatto, cosa hanno imparato, eccetera, eccetera. Quindi in questo modo gli studenti anche sentono l'internazionalità della ricerca. A illustrarci l'iniziativa è stato il ricercatore Michele Pinamonte. La cardiologia ospedaliera di Trieste aderisce alla campagna di prevenzione cardiovascolare Cardiologie Aperte. La prevenzione delle malattie cardiovascolari è il primo e fondamentale approccio per ridurre l'incidenza delle malattie che possono interessare cuore e vasi. Da oggi fino a giovedì 16 febbraio, dalle 14 alle 16, la popolazione potrà liberamente e gratuitamente telefonare al numero verde 800 05 22 33 per porre domande su problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno i cardiologi della cardiologia di Trieste. Sarà inaugurata con un convegno Oreca Next, la biennale delle tecnologie e forniture per l'ospitalità, in programma alla Fiera di Pordenone da oggi al 15 febbraio. A partire dalle 10 nell'area convegni del padiglione 7 si parlerà del futuro dell'ospitalità fra crisi energetica e cambiamento del consumatore. In considerazione dell'elevato numero di istanze presentate per ottenere il rilascio dei passaporti e al fine di agevolare l'utenza, da oggi fino a venerdì 17 febbraio l'ufficio passaporti della Questura di Pordenone sarà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. L'apertura straordinaria è rivolta ai cittadini che hanno già ottenuto l'appuntamento mediante prenotazione sul portale dedicato con necessità di anticipare la data del rilascio. Eventuali richieste per il rilascio urgente del passaporto per coloro che non hanno richiesto l'appuntamento tramite il portale dedicato e che abbiano la necessità di intraprendere un viaggio all'estero per motivi urgenti, salute, lavoro, studio o altra comprovata necessità, potranno essere presentate direttamente allo sportello dell'ufficio passaporti. Ancora una domenica da incorniciare in montagna, con presenze record di sciatori nelle località del Friuli Venezia Giulia. Ma quanto costa per una famiglia passare una giornata sulla neve? Sentiamo. Se consideriamo autostrada, benzina, lo ski pass giornaliero e poi pasti, 100 euro sicuramente una persona li spende. Calcolando che il giornaliero sono quasi 40 euro, una famiglia qua... 150 euro non bastano per un giorno. Si può fare una giornata soltanto, non si può più fare 2 o 3 giorni come una volta. La voglia c'è ancora, ma sciare costa sempre di più. Il budget per una giornata sugli sci parte dall'abbigliamento. Con 500 euro si può disporre di una buona tuta, caschetto e maschera. Per gli sci e scarponi si ricorre sempre più spesso al noleggio. Ormai i negozi offrono attrezzature di alta gamma per tutte le età. Simone Di Ciglia, noleggiatore di sci. Noleggiare costa 25 euro e mentre per il bambino sono 18,50 euro perché ce l'ho scontato il bambino. Il prezzo degli ski pass varia, si va dai 39,50 euro per un giornaliero nei poliscistici della nostra regione ai 74 euro del Dolomiti su Peschi. In Friuli, Venezia Giulia, qua con gli ski pass stagionali scontati con la carta famiglia è ancora uno sport fattibile. Per imparare o migliorare la propria sciata resta fondamentale l'insegnamento dei maestri. Stefano Secco, direttore della scuola di sci Evolution Trilenz di Tarvisio. Il costo è di 45-50 euro all'ora, non ci sono state flessioni, anzi le richieste stanno aumentando. Nei rifugi si fatica a trovare un posto a sedere anche all'aperto. In quota non si rinuncia certo alla buona tavola. Roberto Rosenwirth, gestore di rifugio. Dai 15 ai 25 euro mangi, ma tranquillamente. E non c'è stato un calo? No, assolutamente, anzi c'è stato un incremento. Per raggiungere le località sciistiche, i costi del carburante sono un capitolo importante della spesa, anche se dai giovani arriva una singolare richiesta. Avere anche dei trasporti pubblici che colleghino le piste alle città sarebbe una soluzione ottimale, ma non solo dal punto di vista dei costi, ma anche dell'ambiente. Infatti riempiamo le macchine anche per una questione di sostenibilità. Tarvisio, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo al calcio con il pareggio tra Udinese e Sassuolo, che portano così a casa un punto a testa. Per i padroni di casa è nuovamente rinviato l'appuntamento con la vittoria in Friuli, che manca dal 18 settembre, quando sconfissero l'Inter. 5 mesi di astinenza, sosta mondiale compresa, che sono valsi una mini contestazione e fischi finali. Il pareggio con il Sassuolo non va giù ai tifosi dell'Udinese, lo dicono i fischi finali. Squadra di Sottil subito in vantaggio con Udoji, che dopo nemmeno 30 secondi batte Consigli. Il pareggio, anche questo fulmineo, 5 minuti dopo di Enrique, che supera Silvestri con la deviazione di Biol. Nel primo tempo un palo colpito da Sassuolo con Frattesi, prima della rete del nuovo vantaggio dell'Udinese, firmata da Biol. Tutto inutile perché prima dell'intervallo c'è il gol della squadra di Dionisi, o meglio l'autorete di Perez sul cross di Bairami. Nella ripresa l'Udinese non riesce a trovare il terzo gol nonostante le occasioni. Friulani comunque a quota 30 punti, al 7° posto insieme al Torino. Sentiamo il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil. Questi ragazzi qui io li alleno tutti i giorni e si allenano con dei forsennati, hanno fame, hanno senso di appartenenza, stanno bene insieme, hanno accettato anche un'altra volta di andare prima in ritiro perché vogliono assolutamente fare bene e continuare ad essere protagonisti. Quindi io ci vedo cose positive. Poi ognuno è libero, siccome questo, no? C'è, in questo stato c'è libertà di parola, uno dice la sua opinione, io ho detto la mia e ti rispondo, hanno fischiato, li rispetto, ma ho questa idea. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nella Serie A del basket, partita senza storia quella in trasferta per la Pallacanestro Trieste, battuta a Casale Monferrato da Tortona. I biancorossi hanno subito il gioco degli avversari, terzi in classifica. L'amara sensazione che si potesse davvero fare poco, nonostante le assenze e Cristo non al massimo, Dertone è troppo forte per la Pallacanestro Trieste. La squadra di Ramondino gioca assieme in difesa, con rotazioni che mettono in difficoltà Legovic dalla palla 2, e in attacco con una squadra equilibrata nel gioco dentro-fuori, che è esattamente quello che fin dal primo minuto manca ai biancorossi. L'esperimento di Terry e Spencer assieme, due centri che hanno qualità diverse ma difetti molto simili e che occupano le stesse zone di campo, non funziona e anzi finisce per condizionare il resto della squadra, a partire da Davis, che non trova spazio e fa fatica a orchestrare il gioco. Dall'altra parte Daume, il mezzo lungo tecnico intelligente che Trieste non ha e si diverte a farlo notare. Alcuni minuti di fuoco di Bartley, con triple di talento a ripetizione a fine secondo quarto, tengono vivi i giuliani, che però non possono reggere a lungo. Pian pianino cedono dopo la ripresa, continuando sulla falsa riga dei primi 20 minuti, anche se con una difesa sicuramente registrata meglio. Il problema, al di là delle percentuali al tiro, è che la squadra non trova mai varchi neppure per guadagnare si tiri liberi, solo 6 in tutta la partita, quasi tutti a gara virtualmente finita. Il vantaggio dei padroni di casa raggiunge 18 punti e l'ultimo quarto si trascina senza particolare ardore di rimonta. Il tabellone 18-69, Dertona manda 5 in doppia cifra, mentre a parte Bartley, autore di 23 punti, per la squadra di Legovic ci sono 10 punti e 10 rimbalzi di Terry, in una prova comunque sostanzialmente opaca. Ora 3 settimane di pausa prima del prossimo impegno decisivo per la salvezza, con la sfida in casa contro Treviso. Chissà che dal mercato non arrivi il giocatore che manca. Trieste, Andrea Saula, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket ancora, e ma in A2 APU Old Wild West, priva dei due americani, sconfitta per 92-74 dalla capolista Pistoia al Pala Carrara. 31 punti presi nel primo quarto per una chiusura a meno 18 e un tentativo di reazione nel secondo, con una ripresa che arriva fino a meno 11, ma non è sufficiente. Domenica un'altra partita importante in casa contro Ravenna. Per il volley in Serie A2 femminile, Ita Ceccarelli Martignacco supera per 3-1 Soverato, dominando la gara dopo la sconfitta nel primo set. Con questa vittoria la squadra friulana ottiene con grande anticipo la qualificazione ai play-off. La Cidiata Almassons perde invece l'imbattibilità dopo 10 gare e il secondo posto in classifica in casa dell'IPAG a Montecchio Maggiore. 3-1 il risultato finale. Nella Serie A2 maschile 3-1 è anche il risultato della sconfitta subita in casa dalla Tinet Prata contro Cantù. Oltre 4 secondi in meno di 2 settimane fa, Cinta Yeo Uvissa non si ferma più a New York nei prestigiosi Mill Rose Games. La mezzofondista friulana porta 4:24:54 il record italiano del miglio. Uvissa, originaria di Pozzecco, una frazione di Bertiolo, è sesta nel Wanamaker Mile, comandato dalla britannica Laura Muir, e fa segnare un ottimo passaggio ai 1500 metri di 4:07:14, prestazione che nella storia d'Italia al coperto in atletica leggera è riuscita soltanto a Gabriella Dorio e a Agnese Possamai negli anni 80, ed è l'ulteriore conferma del salto di qualità della mezzofondista dell'atletica bruniera Friuli Intagli, da quest'anno professionista nell'On Athletics Club di Stanza in Colorado. Uvissa tornerà in Italia nei prossimi giorni per partecipare agli assoluti indoor di Ancona il 18 e il 19 febbraio. Iniziamo la nostra rassegna stampa con il Piccolo di Trieste, che in prima pagina ha la fotonotizia della piscina Bianchi, con la notizia della piscina estiva disponibile in futuro per 12 mesi all'anno, e poi la riqualificazione delle tribune della palestra Trieste Campus, la cosiddetta cittadella dello sport di Via Locchi. Porti di Trieste e di Monfalcone terzi in Italia per crociere, il traffico torna infatti agli anni d'oro del pre-pandemia, e Trieste è stato addirittura il terzo home port nazionale dopo Civitavecchia. E poi l'editoriale di Roberto Morelli sul museo che ancora non c'è, quello della cultura di una città che ha generato Svevo, Saba, Slata, Pertomizza, Magris. L'occasione è il centenario della coscienza di Zeno. L'inaugurazione del Museo della Letteratura di Piazza Ortis è in ritardo. In prima pagina sul Messaggero Veneto di Udine c'è la sanità. Pochi medici in 30 rimandano la pensione. È una prima stima dopo che nei giorni scorsi, con il decreto mille proroghe, si è aperta la possibilità di restare al lavoro fino a 72 anni. Per la cronaca, l'incidente di cui è rimasto vittima ieri pomeriggio un 13enne a Taipana, investito dalle fiamme mentre gioca, è gravissimo. Poi i dati dell'anagrafe nel capoluogo, 2 decessi per ogni nascita, ma i residenti a Udine crescono. È una storia che arriva da Zuglio, dallo Yucatan alla Carnia, le suore Maya aiutano gli anziani. La fotonotizia centrale è dedicata allo sport, con l'ennesimo pareggio dell'Udinese. Il pubblico fischia e Sottil si arrabbia. Di piede i 103 anni di Rina Micon, che fece l'interprete per Hemingway, e il bilancio del Festival di Sanremo per Elisa, Francesca e Shari, le tre stelle friulane all'Ariston. L'edizione di Gorizia di Monfalcone del Piccolo ha in prima pagina la fotonotizia del Carnevale di Gorizia, la sfilata dopo 2 anni di stop causa pandemia. Il carro di Doberdò vince con Grisù, gli spazzacamini sono i primi tra i gruppi, ma sentiamo. Inferno sold out e paradiso semivuoto aprono assieme il Carnevale goriziano. Il carro di Opicina invece lancia un messaggio allarmato sul cambiamento climatico, e così anche Savonia di Sonzo, che ci porta nel deserto prossimo Venturo. La compagnia di San Mauro celebra i 100 anni del volo goriziano di Edward Russian. Da Santa Croce iPhone e clave, il presente connesso e digitale non cancella ma accentua le nostre pulsioni primitive. Irriverente San Pelagio con uno sberleffo all'Alleanza Atlantica. Tra Europa e America il direttore della banda è sempre lo stesso. Battaglia rovente a Ceroglie, sul Carso le fiamme accerchiano anche i vigili del fuoco, e una simpatica provocazione intellettuale giunge dal carro di Medeazza. Con i suoi punti di domanda ci chiede perché abbiamo perso lo spirito trasgressivo e giocherellone del carnevale di una volta. Infine Monfalcone, travolgente con i colori sinceri del carnevale ritrovato. In questi 2 anni ne abbiamo visto di tutti i colori: crisi energetica, climatica, caro bollette, care energie, la guerra, ma siamo sempre qua. Gorizia, Maurizio Merva, TGR Friuli Venezia Giulia. E proseguiamo con l'edizione di Gorizia di Monfalcone del Piccolo, che ha come fotonotizia un triestino sulla nave dei record, la MSC World Europa, e Dino Sagani, che dopo 27 anni in Princess Cruises è appunto approdato in MSC. Un onore, ha detto, essere stato scelto per guidare un'imbarcazione così grande e futuristica. La nave infatti è un colosso da oltre 6.000 passeggeri con propulsione a GNL. Nell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto l'apertura è dedicata al concorsone. 8 posti in comune, ci provano 730 candidati. Oggi il maxi concorso al Palazzetto dello Sport, stipendio mensile di 1.400 euro a chi ce la farà. Per la cronaca una notizia da Caneva, neopatentato esce di strada e risulta positivo all'alcol test. Poi un progetto a lezione di vita pratica al campo scuola degli Alpini a Tramonti di Sopra e una denuncia, sono spariti dagli archivi i registri scolastici di Pasolini. Forse sono stati persi in un trasloco o portati via da qualcuno, ipotizza la docente Liviana Covre della Fondazione Friuli. Di piede da Spilimbergo il grande successo per lo scambio delle figurine in occasione del Memorial Luisetta Zuppelli Paglietti. In prima pagina anche sul Gazzettino di Udine l'incidente di Taipana, gioca con la benzina, si ustiona, grave un ragazzino tredicenne. Poi un richiamo per il tema di apertura della cronaca, le università non sfornano laureati, aziende in crisi. Union Camere decreta l'emergenza in regione, in palio quasi 2.000 posti di lavoro ma non si trovano profili. Nella prima pagina della cronaca di Udine anche la crisi nelle pediatrie, troppi bimbi in cura con poche risorse. Sul clima, la notizia dello studio dell'ARPA che smentisce il consigliere in riferimento alle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da Stefano Turchette. Poi arrivano i soldi per limitare le piene, un finanziamento da 200.000 euro ottenuto dal consorzio di bonifica pianura friulana. Infine lo sport, fotonotizia centrale per l'Udinese, un pareggio amaro per lo sci, dalla Mea ai mondiali motivata e piena di energie. Poi l'Old Wild West, non riesce l'impresa contro Pistoia. Sul Gazzettino l'apertura per il crollo dei laureati, aziende in allarme, spazio alla sanità, la crisi tocca i reparti dedicati ai bimbi. Andrà in onda questa sera alle 21.25 il primo episodio di Fiori sopra l'inferno, la miniserie coprodotta da Rai Fiction e Publispay per la regia di Carlo Carlei, realizzata con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission Promo Turismo FVG. La seconda puntata sarà trasmessa lunedì 20 febbraio, mentre l'episodio conclusivo sarà messo in onda lunedì 27. La serie, che in fase di produzione ha impiegato 22 maestranze locali per oltre 40 giorni di riprese nei comuni di Chiusaforte, Malborghetto Valbruna, Tarvisio, Udine, ispirata al romanzo di Ilaria Tuti e scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristani, Valerio D'Annunzio e Carlo Carlei, vede come protagonista Elena Sofia Ricci nelle vesti di Teresa Battaglia, commissario di Udine assegnata al caso del paesino di Traveni, dove un assassino rischia di destabilizzare la quiete ostentata e fittizia della comunità locale. Il palermitano Giovanni Sollima, violoncellista di fama internazionale in duo con la giovanissima pianista Carlotta Maestrini, già vincitrice di numerosi premi. È l'appuntamento promosso dalla Società dei Concerti al Teatro Verdi di Trieste alle 20.30. In programma una proposta d'ascolto variegata che mette a confronto giovani di diverse epoche, da Beethoven a Eliodoro Sollima, da composizione dello stesso Giovanni Sollima alle sue riletture di brani di band degli anni 90. Ritorna sul palco del Teatro Miele il Pumpkin Cabaret con la seconda parte di stagione della nuova formula riveduta e corretta dell'aperitivo animato al quale segue lo show. L'appuntamento assieme ai Papu è alle 18.30 per l'aperitivo e alle 19.30 per lo show. Da James Matthew Barry, l'autore di Peter Pan, una pièce che revoca il tempo tragico e commovente della Grande Guerra. Si tratta de Le medaglie della vecchia signora, la quarta proposta della stagione Teatro Allegio con Ariella Reggio, in scena alle 18 al Teatro Orazio Bobbio di Trieste. Unica data in regione al Teatro Verdi di Gorizia per Paradiso 33esimo, spettacolo divulgativo nato dopo la lettura da parte di Elio Germano di quei versi alla presenza del presidente Sergio Mattarella a Ravenna a settembre del 2020 in apertura delle celebrazioni del 700esimo anniversario della nascita del sommo poeta. Messa in scena alle 20.45, l'attore, nonché regista, musicista e compositore Teo Teardo sono voce e musica. Ed è tutto per questa nostra prima edizione del Giornale Radio, che in regia ha avuto Federico Comar e Mauro Coloni. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Da Lara Zani e da Elisabetta Zaccolo ancora l'augurio di una buona giornata. A risentirci per il prossimo Giornale Radio alle 12.30. Una buona giornata ancora. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.